Sveglia! Andare dai, poi stavo trovando un altro microfono, ma li lascio questo, dai. Ma dove cavolo l'hai puntato quel dipolo? Quasi a fondo scala. Perché è puntato verso di te quel dipolo, Antu? È per quello che ti arriva a fondo scala. Perché il dipolo è direttivo, vuol dire è puntato verso questa zona. Basta, questo è puntato verso quella zona lì, la zona vostra. Ho visto tutto qua, ok, riesce a vedere cosa, ok, se tu fammi della radio, vero, la lascio così, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, prova. E il salimentatore Murendi, pure, perché non ce la fa, tu, capito, quindi non lo posso aumentare più di tanto, se no muoio veramente, si sciuglie. Ma che non ti biglielo dici di cinesi, c'è anche senza vento, là c'è da 20 ampere. Scusa un attimo, devo trovare un altro tipo di alimentatore da 50 ampere, ancora non mi arrivo, dai, riprendi la tariffa. Come quello mio te lo devi comprare, fra, se non lo trovi con l'alimentatore, col trasformatore te lo compri come il mio e vedrai che funziona bene. Il mio è 30 ampere. Ma infatti questo sta morendo, non ce la fa anche, non ce la fa perché... faccio la ripotenza, faccio prendo l'altro, la sto lasci qua. Capa, prova che... Aspetta che si posa Romeo, me. Domani che ne va in onda. 747 me lo porta come una bestia, me lo porta. Allora adesso sto attaccato, c'ho poca potenza adesso, cioè no, non so come ben di nulla. Però cavolo, che quello là te lo porta bene, non li va di nulla più batti di quando del dovuto pure. Perché quello tuo è più grande, quello di Franco è un alimentatore piccolino, deve essere non ce la fa. Capito Lion tu? Se gli dai troppo assorbimento, poi si andando a fanculo e si sciogli il salimentatore. Cura a noi. Peccato che è troppo grande questo baracchino, quanto è bello. Me l'avrei messo in macchina, perché mi ho fatto l'impianto bene e ce l'ho in macchina, quello piccolino ho messo. Però questo è bello, il coso, il baracchino. Solo che è troppo umano, dove te lo metti? Questo è omologato stesso. C'ha 4 watt, le bande laterali, c'ha tutto, però non c'ha né canali né potenza, perché è omologato. Si labbri perde l'omologazione. E io l'apparato omologato qua lo devo avere. Capa, comunque io mi trovo molto bene con quegli alimentatori cinesi, cavolo, mi portano l'amplificatore, me lo fanno andare bene proprio. Il 747 lo vogliono andare proprio a tutta birra, lo fanno andare. Pagati poco, funzionalità buonissima, la verità ti dico. Adesso sto utilizzando un alimentatore piccolo, tanto non ho potenza, capito? Non sto utilizzando, pochi watt. Tanto siamo vicino, cos'ha? Ora mi bonga a pompare. Guarda questo, Antu, 1, 2, 3, 4, 5, 6, questa è la 50, Adesso va bene. Tappa. Natalia, adesso meglio mi ascolti? Adesso ti ascolto benissimo. La radio è chiara, no è tutta bu bu bu come se andai a bocciugli dati un microfono. E la mia com'è la radio? Ma oggi c'ho la voce bassa, c'ho. Ci fanno per più venti il radio Super 5 qua se arrivando, è abbastanza buona la radio. E gli ho messo, siccome Antonio mi ha regalato lo spinotto a 4 punte, no? Mi ha attaccato l'MB più 4, quello che c'avevo dentro la scatola. Capito? Antonio mi ha dato lo spinotto e mi l'ha già attaccato. E così anda bene Meda. Tutto cavagata. U59 20 dB over 9. QSL. Andare. Va bene. Tu, quanto è il rapporto da te? C'è a fondo scala, è la radio Super 5. A fondo scala, addirittura. Ora. Se lui abbassa un po', Ah, già andava così. Sei sul dB del più 30. Poi scende il dipolo. Pensa che adesso a febbraio ha piazza l'antenna sul tetto. Poi vediamo, dai. Oh, io, coi pareti pigliamo. E pasticcini. Adesso sto usando quella... Casino. Guarda, questo è stato il microfono, questo è uno, Adesso... Ah, chi è che sta, vuole entrare? Avanti. Scappa, guarda a vedere com'è, com'è il segnale aumentato, Da me? Sì, ya. E se non per 30 quasi, quanti. Segnale buono, anche la radio è buona. Guarda lì adesso, adesso abbasso, guarda adesso c'è un altro. Sì, sì, nove, sì. Adesso ho abbassato pure io. giornata lì. Sì, ho in macchina lì. Spacco di cartera. Resistente, però la guerra è che lo puoi Marco ieri. Me l'ha spiegato Marco cosa è successo. È un casino, ha fatto un casino. Peccato veramente, perché il lavoro era fatto bene, era finito tutto, ma a prescindere da quello, vabbè. Per le antenne non è un problema, si dovranno comprare, il problema è rimettere tutto lì in sesto. Ascolta, mi viene da ridere perché. Quindi Italo è sfrattato, dov'è? No, per niente. Italo, a parte che è più protetto, diciamo che per l'inquilino Atos sono inquietiti lì, capito? Italo è più giù, niente a che vedere con loro. Ah, quindi proprio, sì, ho capito, dai, l'altro, dove avete fatto i lavori, dai, sì, ha ragione, Italo è dopo il capannone, dai. Diciamo che ha fatto più danno al capannone che altro, ma quello, essendo Ethernet, si può ripristinare, diciamo, quasi subito, adesso vediamo cosa fare, quella è la prima cosa da mettere in sicurezza, adesso ne parliamo col datore di lavoro, vediamo di fargli un preventivo e poi valuterà. Va bene, pazienza. Vuol dire che invece di comprare una radio più grande mette a posto il tetto. Sì, ma credo che ne abbia bisogno di radio più grandi, tanto. Credo che abbia raggiunto il culmine della radio. Sì, era una battuta, dai. Le antenne, peccato, quelle erano buone, erano, però. Mi ha detto Marco, ha spazzato via tutto, anche traliccio. Sì, ma ha piegato, cioè, diciamo che ha mollato un gigante, un Bicon, ma neanche il Bicon, è fuoriuscita una staffa dal muro, perché la marcia si è rotta, e da lì ha compromesso il tiraggio del traliccio e l'ha piegato. Ehi, ti posso chiamare un minuto al telefono? Ce l'hai a portata di mano? Sì, dai, lo prendo. E prendilo un minuto, là. Siamo qua, vabbè. Luca, hai scansionato, hai fatto? A 1-1 li devo scansionare, perché poi li devo salvare nella cartella, capito? Così che togli un foglio, metti l'altro, scansiona, salva, converti, eccetera. Una mattina Luca sono una massa. Sì. Becco? Vabbè, mi è caduta la linea per caso. Eia, una risposta è caduta, aspetti, sto richiamando. C'è un break, avanti. Eia, ciao Claudio, ciao Tino, ciao Luca, non so se ci sia qualche un altro. No, salve, scusate un attimino. Aspetta, Robert, che devo. Sono al telefono, un secondo, devo dire due cose a Tino. Eia, non c'è problema. Dì anche di quella roba mia quando c'ha tempo, Luca. Luca, c'è qualcuno qua su 10? Sto facendo qualcosa, Robert. Eia, come sto facendo con questa radio, Luca? Che ho messo il microfono, ho fatto una regolazione. Bene, bene. Com'è, giusta come livello di modulazione o è bassa? La posso alzare pure? No, lasciala così. Per me lasciala così. Va bene, dai, ci sentiamo appena finito. La tengo qua, ci aspetto a Claudio e a Tino. Ciao, vabbè, Santiago 9-10, 9-15, Radio 5, buona domenica. Ciao Franco, mi senti tanti a te, confermo il rapporto, anche a te 9-10, Radio 5. No, sto parlando come livello di modulazione, ho fatto delle regolazioni col microfono, sull'equalizzatore, perché l'avevo toccato, mi sono ascoltato, a orecchio, sembrava normale, adesso non so poi in trasmissione, c'è lontano come va. Ma io ti ascolto bene qua, non lo so gli altri come ti ascolta. E come stai ascoltando a me con questa radio? Va bene, perché mi stai ascoltando. Sembra che sia pulita la modulazione. Ok, no, perché volevo capire più che altro il livello, non parliamo della qualità, il livello se è bassa o se è volata. Ma io l'avrei sollevata appena. Vabbè. Adesso ho alzato un peluzzino, guarda se va bene. Prova. 1, 2, 3, prova, canale 10, 27, 0, 7, 5 la frequenza. Perfetto, lasciala così che va bene. Adesso io sto pilotando con questo microfono, è un microfono normale. Adesso trovo un microfono adattato, un MD4, e vedi un po' la differenza. Che cos'è? Che radio è qua? Guarda, con questa modulazione, con gli ascolti, no, questa è un'altra radio. Allora, la modulazione è diversa, la questa c'è un effetto camera, sembra che c'è una stanza vuota, l'altra era più presente. Quindi questa è... No, di intensità microfonica sono simili, forse anche l'altra appena più forte, però questa ti dà un effetto ambiente molto grande, cioè una stanza vuota, una sarà più presente. Quindi questa qua, questa è un'altra radio, adesso diciamo che inizi però a due, però posso aumentare ancora. Ma scusa, a che distanza sembra che stai parlando lontanissimo, tipo quando sei col cellulare mi va a voce, si sento, la radio è chiara, pulita, però sembra di essere molto lontano dal microfono. Guarda adesso, 1, 2, 3, 4, 5, 6. No, adesso va benissimo, bene. No, è perché era distante il microfono, adesso ero distante io dal microfono. Forse anche per quello. Quindi la radio va bene così, va bene. Certo, sì, va bene, però ti dovresti avvicinare, quando sei troppo lontano ti fa questo effetto lontananza, tipo quando sei in un ambiente grande, devi essere un po' vicino, stare più vicino al microfono, così fa quella presenza, effetto presenza. Dai. Break? Ho capito. Infatti adesso diciamo che sto parlando sono a 20 centimetri dal microfono lattato, questa è la prima modulazione, Roberto. Un attimino. Scusa, adesso guarda questa, la modulazione è una radio. Adesso ti farò il passaggio con un'altra radio, capito? Fallo veloce così, memorizza. Allora, questa è l'altra radio, come 1, 2, 3, 4, 5, microfono normale. Questa è più forte, più presente, forse leggermente più alta. Ok, dai, allora lascio questa. A me mi piace più questa qui, eh. Andar bene mela. Ok, c'è stato un break, avanti con la buona domenica. Antonio, sono ritornato, buonasera a tutti. Ehi, ciao Antonio, mi hai sentito anche a te? Capa, Robè, mi hai sentito a tutti, ma c'è qualcun altro, c'è? Allora, c'è Luca Flipper che sta facendo delle cose in Corrix, poi c'erano Claudio e Tino che erano al telefono, si sono spostati un attimino, penso che rientrino tra qualche attimo. Poi c'è Franco e basta. Capa, capa, dai, c'è problema. Stavo dicendo alla mia signora, vabbè. Ehi, non c'è problema. Ok, con questa radio mi stai ascoltando bene, la modulazione è molto... cioè il livello microfonico com'è, non dico la qualità, il livello microfonico, e tu? Buonissima, e tu come mi senti, bene? Sì, ti sento forte, niente da dire. No, no, parlo rispetto a per dire a quella di Franco, questa è più bassa, più alta. No, io non niente, sempre tu sei, sempre tu sei. Perché ho ripreso il microfono in mano, un altro microfono che usavo poco, e avevo fatto delle regolazioni per un'altra radio, adesso mi sono ascoltato, poco fa mi sono messo a giocare, per cercare di renderla abbastanza comprensibile, però a livello microfonico non mi sapevo regolare rispetto agli altri, perché quando ti ascolti tu cerchi di regolare bene, però il livello se è troppo alto o troppo basso non lo so. Ma qua sei a fondo scala, sei a fondo scala, c'è 9 più 30, radio 5. Non so come ti arrivo io, ma qua sei un bel forte. Tu sei quasi 9 più 30, un poco meno di 9 più 30. C'è la radio 5 forte. Kappa, non so, Jess, che non te lo dico io, non te ne accorgi, scommetto. Kappa, è una bomba, è una schioppettata questo che ho preso adesso, cavolo. Ma hai cambiato radio o che cosa? Vabbè, ce l'avevo già, però questo è un altro amplificatore. Ah, quindi hai cambiato la stufa, non la radio. Cappa, questa è una schioppettata, questo va bene. Questo non è una porcheria, no, cioè... Che io, no, adesso è forte, puro truppo. Ok, vediamo se Franco c'è ancora, avanti Franco. Cappa, vabbè, sì, confermo per segnare. 9.25, sì, Robè, guarda. Antonio sta arrivando, 9.30, affitti, cioè, e 25 hanno affitti, 9.30, sì. Ci stanno dicendo, vabbè, non è che c'è qualcuno che sta vendendo, qualche lineare sotto il campo, piccoli piccoli, però. Non so per chi dirti, ma piccoli quanto, 50 watt, 100 watt? Non 100 watt, di quelli piccoli, però, non di quelli che assorbano bene, vabbè, perché il pannello solare, però. Stavo cercando uno tutto io per adeguarlo nel campo, capisco, per avere un po' di più potenza con numero qui. Ma io non ma il camper c'è due batterie naturalmente, no? Il camper c'è due batterie, una della tensione, della diametro praticamente, e pulso, l'altra batteria ausiliaria, quella che mi comanda la pompa dell'acqua e tutto il resto. E qui c'è il pannello solare, capito che mi ricarica la batteria all'interno. No, non c'è problema, dai. Che camper è questo? Che camper è, fra? La batteria? No, il camper, che marca è? Adesso mi ricordo. I laghi, ma senti, ho laica, no? Poi, è un lag, come dico allora, io c'ho l'Enac. Che cos'è, meccanica Ford o Ducato? È un Ducato 2005 aspirato. Io c'ho il Ford 2005 aspirato, di che anno è il camper? Del 1997. Ma cos'è, Clipper? C'è scritto il lag Clipper per caso? Tappa di questo tipo. Era come il mio, vabbè, il mio è un po' più vecchiotto, anche se nuovo, mi è perfetto in tutto. Però è vecchiotto, più vecchio del tuo. E cosa vuoi dire, cosa è, il 5,80 o il 5,40? 5,80. E allora vuole il mio. La porta dove c'è? Laterale davanti verso lo sportello o ce l'hai dietro in coda? È laterale verso lo sportello. E allora uguale al mio. Poi c'è in bagno in coda, tu così è. Tu appena entri, come apri la porta a sinistra, c'è il cucinino e il frigorifero, così è. E poi di fronte c'è il tavolino alla cucina, così è. Due tavolini, come il tuo sicuramente, c'è il tavolino, quello dietro il passeggero di guida, e poi l'altro tavolino, che mi risulta l'altra parte sulla destra, in fondo. Ma tu il bagno ce l'hai a destra o a sinistra, guardando dal muso? Ce l'hai sul lato destro il bagno o sul lato sinistro? Lato sinistro, vabbè. Allora tu ce l'hai al contrario di me. Ma e quanto è il posto? 5 posti o sei il tuo? E 6 posti, vorrei dire. Allora, mia, sei solo invertito la posizione del bagno, tu e basta. Ok, ma siamo uguali, dai. Ma salvato naturalmente. Esatto. Siccome ci vogliamo mettere il baracchino, ci vogliamo mettere questa la 68 lì. Capito? Cioè, ora voglio mettere quella magnifica perché non mi voglia di buscare, fare, capito? Sì. Io ce l'ho la lanterna, ma l'ho dato già la lanterna del baracchino, anche se l'ho usato come bagno, l'avevo usato azzurro, poi non l'ho tolto ormai. Non mi interessava. Però ce l'ho già il coso, l'antenna ce l'ho già predisposta. E lì lì no, cosa te ne frega, più che altro. Ah, la volevo mettere, devo uscire appena appena più forte, c'è dal culo, verso il sentino, per le vie, verso fatto il sangue. Ah, dico per fatti il coso, dai, non c'è problema allora. Ok, e Luca ci sei ancora o stai lavorando tu? Luca sta lavorando, guarda tu. Capa, che Luca è entrato? Luca di la morte, ma subitamente rubato andava. Punto, zitto, zitto. Luca Flipper è entrato. Però stava facendo cosa? Ha dato soltanto un commento, ha fatto, perché non si ricordava il nome Franco del mezzo. Capa, vabbè. Cioè, cosa c'è il Ford Transit tu? Io? Ehi, io c'ho il Transit e poi ne sto finendo di allestire un altro furgonato, quello a due posti, lo sto facendo, questo è una bella storia, è quasi finito, sto finendo l'impianto elettrico, devo fare il pannello di comando, ieri quando venerdì mi sono arrivati gli strumenti, devo mettere salvavita e tutto, però tutto il resto è quasi tutto, come si chiama, allestito. Ma te lo sei venduto? Come? Se lo stai facendo tutto, lo stai facendo. Ehi, lo sto trasformando, era un mezzo speciale, uso speciale, quello della Telecom, lo sto adattando alle mie esigenze. C'ho già l'altro camper, quello lo uso quando devo uscire con gente. Questo ha due pulsi e riesco a muovermi meglio perché è più piccolo, è per due pulsi, per cui riesco ad andare in pulsi che con l'altro non si possono entrare. Già è bello, cavolo. Quando un di voi, un ghiso, lo devi omologare e poi devi portarlo giù alla motorizzazione dopo che è fatto. No, questo è già omologato, è uso speciale, sono quei mezzi della Telecom, quelli che sono tipo laboratorio mobile, vengono censiti con parti mobili e fisse, per cui io ho messo qualche cosettina in più, ho modificato l'impianto elettrico e tutto quanto, però non sto modificando la struttura del mezzo, non è, quello è nato come mezzo speciale, non è un furgone, perché tu un furgone non lo puoi trasformare, a meno che non fai l'omologazione in camper, se è un furgone oppure se quelli per trasporto persone, non puoi toccare niente, devi per forza fare l'omologazione. Noi ne facciamo tanti in officina di amici di queste cose, qualcuno poi ci ha fatto l'omologazione, se ne occupano loro, oppure se vogliono ce ne occupiamo noi. Sì, ma se lo fai a camper un obiettivo devi omologarlo, Certamente che sì, a meno che non prendi un coso, quello trasporto persone, ti prendi i sedili trasformabili in letto, tu non stai modificando i posti perché stai lasciando i sedili in origine, e poi ti aggiungi un cuscinino, un coso, un lavandino, se ce lo vuoi mettere, quello non ti pregiudica niente perché non stai modificando la destinazione del mezzo. Il problema è quelli che prendono un furgone vuoto e poi ci mettono dentro la cucina, il letto e cose. A quel punto devi stare molto attenti perché ti ritirano il letto e ti prendono una bella multa. Ok, vai Franco, il mio è anche gemellato, tra l'altro, il transit. Il tuo no, non è gemellato il tuo, Fra, naturalmente sarà normale dire nulla, dai. Ok, e riprendi Antonio, vediamo se poi sono rientrati Tino e Claudio, rientreranno, avviseranno, vai tu Tino. Scusa Antonio. Ehi cappa! Il coso è che è così, è bello però, cavolo. Ho visto il furgone vostro l'altro giorno, quello che usate voi. Io sono sempre abituato a vederli con motori 1.900 turbo, 1.600, quei motori nuovi. Il vostro mi ha detto tuo fratello che è proprio uno dei primi, col motore da guida manera. Di che cosa? Non ho capito, scusa, di cosa stai parlando? Del Doblò. Quello è aspirato, il motore nostro del 2009 è aspirato, ma poi ce l'ha regalato un amico, il cugino della moglie, dai, la cugina della moglie, c'erano due, come cazzo si chiama, le bombarde, di loro usavano lì, ma c'erano le 60.000 km, sono rimasto fermo un paio di anni, l'abbiamo tutto riverniciato, mio fratello l'ha maltrata, c'è da dire, quello lì, però il motore era nuovo, era tutto in ordine, l'abbiamo tutto riverniciato, adesso è un po' brutto, un po' sozzone, col mezzo di parola, era affidabilissimo, non c'è mai nessun problema quel mezzo, perché il tubo bisogna stare un po' attenti, se li solleciti, eccetera eccetera. L'ho aspirato anche io, infatti l'altro furgone, quello furgonato che ho preso di campo, l'ho preso 2008, aspirato proprio per avere meno complicazioni e più affidabilità. Vabbè, ma motore turbo è motore turbo però. Sì, sicuramente il tubo ti dà più spinta in velocità, però in salita non pensare che ci sia molta differenza, perché il tubo a bassi regimi, se non lo tieni allegro, perde un pochettino, lo devi tenere un po' allegro come cosa, devi scalare la marcia per farlo salire di giri, se non sarai in regime di coppia, non pensare che ci sia molta differenza. Io con quello che ho io, il 2008, non so se il tubo se ne varrà molto di più in velocità, perché avevamo fatto la prova, abbiamo sceso da Oristano, io con la multipla mia, che 1.900 JTD, non riuscivo a stare dietro, vite la camminando di un be, alla fine io l'ho lasciato andare perché ho detto non mi ubbidiare contro la vetta, ma lui era più di 170 davanti a me, ma camminando di un be in salita e a pompa mia, pure lo gosso, il deli, lo ducato, se sono a posto di motore viaggiano di brutto. Guarda, io mi sono seduto su un 2003 Ducato turbo, mi pare c'era 165, cioè, mi sono spaventato, più della macchina mia camminava, ma non solo in velocità, io parlo di accelerazione, era una cosa spaventosa, mi ha fatto agito, se ne vedi questi corrieri che camminavano con le macchine, mi sorpassano, io dico, ma tanto cammina nelle queste cose. Poi hanno preso l'Iveco, questi qua, però l'Iveco non cammina così tanto, cioè, hanno più o meno la stessa potenza, ma l'Iveco è un po' più lento, c'ha più potenza, ma è in salita, lo tiene di più, però cazzo di velocità quelli di coso della Ducato, della Fiat camminano di più, un bel. Me l'hanno detto, me l'hanno, ne avevano una di ambulanza che era 3.000 di cilindrata, ma era una bestia, era roba, una bestia camminava un bel. Sì, io lo so, sono limitati perché sono grandi, l'aerodinamica, però se quel motore lo piatti in una vettura guai, c'ha una potenza, il cambio, poi sono tutti a 6 marce, riesce a gestirlo meglio il motore. Ok, Franco, avanti a te se ci sei ancora. Nulla, Luca sta lavorando, vediamo se Tino e Claudio sono rientrati. Che non ci sono fatti? Eravamo già portato le mani, avete. Esatto, beh, due cellulari, chiudi. So che ore sono. Mezzogiorno e 3 minuti, no, pensavo fosse più tardi, dai. Cappa, su mezzogiorno e 3 minuti, già andava. Allora un po' poco fa, capo, non riusciva a modulare. Vabbè. Ma tu questa roba che stai utilizzando, tu, e puoi staccarlo, uscire liscio? Cappa, aspetta. Ora, com'è? Allora fammi il passaggio liscio e poi il passaggio normale, quello di presa. 1, 2, 3, prova. Questa cosa è liscio? Sì, sono liscio. Sei più di 9,20. E adesso com'è? Quasi 9,30, sei da 9,25 e poi sei da 9,30. Sì, già sta funzionando, dai. Non è che sto spingendolo chissà quanto. Sì, spingi, spingi. Antonella. Allora, tutti spingendo a farlo qua, blu. E no, che fate la gara a chi ce l'ha più grande, chi ce l'ha più grosso. Allora, chi ha più grosso. Ciao a tutti, buongiorno, ben ascoltati. Questo è il microfono tuo, mio Antonio. Allora, appena che devo venire a prendermelo. Indovina cos'è, era? Vediamo se ci avevi. Qualche maledizione era. La, la capsula era, e l'ho cambiata. Adesso è a posto. L'ho aperto, l'ho aperto l'altro giorno. Secondo me mi viene il dubbio della capsula. Io l'ho cambiata, l'ho provato un bombone. Non lo fa più Antonio, meno male. Ma che microfono è Antonio? È un microfono del 6 amplificato, di quelli palmari. Oh, sta usando bene, niente da dire. Ma l'ha parlato giorno con l'altro Antonio. Qua stiamo facendo bene, per dire. Non dire, non si sentiva, ma è arrivato a casa sua. Per carità, sembrava di avere molto picco a fianco. Allora, stavo facendo di testa, perché gli ho detto, portamela a casa, detto, che glielo guardo. Poi mi è venuto il dubbio l'altro giorno, ho detto, i cavi non possono essere, quindi, c'è qualcosa la capsula, l'ho cambiata, e così ho fatto, era perfetto. Sì, io. Però era qualcosa, perché poi l'ha fatto anche a casa tua. E poi l'ha fatto anche a casa con questo, qualcosa di 4.000 l'ha fatto. Quindi adesso già non lo fa più, già è perfetto adesso, quelle, quelle anche che la fa. Come fa ancora i piedi nel coso, non si sente lo zio. Ma che radio è questo? Con che radio stai uscendo? Con quello del 4.000 sto uscendo. 30.000 e 3.009. Ma era quello grosso, quello professionale, te l'avevi venduto pure? No, ce l'ho qua, ce l'ho buttato. L'ho dovuto usare, mi chiedevo di quanto lui l'altro giorno, è sempre spento. Adesso nella parte. Non sto utilizzando per niente, no? C'ho tutto, c'ho scatola, c'ho gli accessori per poterla agganciare in macchina, capito? L'unità la puoi spostare, puoi mettertela dietro e il portalino davanti, c'è tutto. Quello di cos'è? La quadribanda? Eia, quadribanda, è noto 5-7D. E non è quanti watt tira? 50 quello? Sì, se mi ricordo male 50 watt tira fuori, forse qualcosa in più anche, no? Adesso non mi ricordo. La verità, è stato bene che non lo uso, quindi comunque già basta controllare su internet c'è scritto tutto, perché a seconda di come lo fai tu mi devi fare la come si dice, la programmazione tu, da mettere il portalino, puoi aumentare il watt, abbassare il watt, poi c'è la questione della equalizzazione audio per il microfono normale, per il microfono amplificato, eccetera eccetera. Devi passare tutto tu. Io il baracchino che non avevo di parlare. Io Antonio, non fare a Falcone per favore, che domenica oggi dai. Ciao Antonio. Ciao, buongiorno a te, ciao anche a Claudio. Cazzo, ma abbiamo due antenne a me, Claudio. Mi ha spostato l'antenna l'altra notte. E in più mi ha buttato giù l'antenna del condominio, quella del HD. E pigiata, a un fianco, un cazzo ci sta questo pazzetto a sistemarla. Già si vede, ho visto. Qualche cosa già si vede. Ho detto, gli ho mandato un messaggio, ho detto, chiama il tecnico e dici che ci prende un paio d'acqua, perché se vuoi l'antenna, ho detto, ne c'è nell'intera del tutto a sua volta. Ho detto, tu immagini anche quel casino che ha fatto a San Camillo, se fosse arrivato qui, là, ci aveva fatto gloria a tutti e due. A me, mio padre se ci mette armato, non fa niente, capito? L'antenna già non è cale, tranquillo. Buongiorno Roberto, buongiorno Tino di nuovo, buongiorno Antonio, Antonello, insomma buongiorno a tutti, dai. Avanti Roberto. Ciao, ben sentito. Ok, cosa volevo dire? Ti sto facendo qua a San Camillo, poi che è successo a San Camillo? Non era lì punto la tromba d'aria. Lui ha fatto danno lì a... Metto il tetto che ha tracciato lì a San Camillo, poi gli alberi che l'ha buttato a Pedanieda, poi ci ha fatto Pedanieda, di punto San Camillo. Ma la mano non è arrivato qua, se fosse venuto qua, tutte le terre mi aveva portato via dal tetto. L'avevo trovato tutto giù dove è a tira, lì dove c'è il bar l'avevo trovato. Segnalamento che Comunque fine settimana ho visto le temperature da venerdì, arriviamo a 18 gradi venerdì e sabato prossimo. Sì, speriamo che arrivi, che salga, vabbè, a febbraio almeno, dico adesso. Comunque il primo era un ciclone, il secondo che ci sta arrivando adesso è il secondo, quindi oramai anche noi non siamo più immuni. Il percorso è quello, ci abbiamo aspettato di tutto, dopo l'estate molto calda, questo inverno è proprio da paura, bisogna attrezzarsi bene con le antenne, fare i lavori ben fatti, ma ormai c'ho i ritiranti, se no va proprio via a me, la parabola dove è agganciata. In più l'avete trovato in strada, tutto in strada mi siete trovato, avete fatto un danno, guarda, io vivo io mi sarei pagato un minimo di 1200 euro, a parte le tegole lì sopra. Il vento è maledetto, quando attacca poi quando è così forte, questi da sud poi sono i più pericolosi, lì c'era quel vento, perché arrivano diretti puliti, non c'è nessuna protezione. Ma guai che non ho fatto danno ai nobili, se no guai. Io sono sceso alle punte a vedere giù dove abbiamo la roba, a vedere se aveva buttato qualche palo, la luce, a me c'era male, è andato tutto a buon fine, ha resistito perché ero preoccupatissimo, dopo che ho visto le immagini di Walter mi sono spaventato, cazzo, è andato radicato a boga la roba. Ha fatto un bel danno, ha fatto mezzo di punti, poi da lì ha preso e è andato verso San Camillo. Mia nipote che c'ha la fidanzata a Signori mi ha detto che mi ha radicato un albero alla strada, a mezzo alla strada, un albero di quelli secolari, ha truncato in due. Sì, no, ripiegare cosa ha fatto alle punti. Ciao Antonio, ciao Roberto, ciao Antonio. Non solo a Walter, anche a fianco ha scoperchiato un sacco di tetti. Tu faccia che la commentazione della casa di Walter l'abbiamo trovata, forse in linea d'aria, così 6 chilometri. Addirittura, dice che era centro casa, mi stava raccontando, ne ha radicato il cancello, l'insegna dice il blinto ne ha attaccato. Allora, sì, l'insegna del coso, dei mangigli, sì. E poi a fianco dove sono quei cancelli, hai visto? La vita dei cancelli ha buttato un albero intero. Vabbè, purtroppo. E poi non ho capito dove ha scaricato l'acqua, perché la sera, il venerdì notte alle 11, qua era cazzo temporale fortissimo, sentivo questi tuoni, non era vicinissimo, era nell'arco di un chilometro, perché non si andava dalla luce, dal momento che la luce al tuono, ho calcolato più o meno un chilometro, però non ho capito dove ha scaricato l'acqua, perché a Canega ho chiesto, c'è un'amica mia, ha detto no, non era da noi, non ho capito in che zona è. Non lo so, ho visto che ha fatto una sorta di curva, perché non erano le case compromesse, erano non linee, capito, una sorta di curva, quindi stavano girando e facendo danno. Anche qua mi sono spaventato parecchio, cavolo, cioè vedevo, cioè mi entrava anche un vediata nel lucernaio, cavolo, vediamo antenna bigendi in due, però non gli ha fatto niente. Eravamo al telefono, non so se ti ricordi. Sta mancando la luce, stacca tutto, dove stacca tutto? Io ero fuori qua, stavo dal barbecue, stavo attingendo a farmi due fettine, passata ma di striscio, passata come dei fulmini, passata di acqua, magari le farei. E poi dopo, ti posso dire, dopo quattro ore mi ha chiamato Walter. Figurati se avessi messo dei fettini fuori dove ce l'avessi trovato nella campagna a fianco. Mamma mia, roba vera, roba brutta quando succede così. No, vabbè, diciamo che dalla sfortuna forse gli ha toccato la parte meno dolorosa, diciamo, perché guai se fosse sceso lì dove realmente l'impianto delle due torri. Se succedeva nel bunker faceva danno di migliaia e migliaia di euro. A parte che quanto vuoi che posso tenere quelle antenne, quelle con la cubica lì, insomma, si l'avrebbe fatta un cinetto. Già lo credo. Guarda, infatti ti ho mandato quella militare americana che ho preso, funzionante, dopo l'attacco. Te la faccio sentire con la microcornetta, guarda che bella è. Con cosa sto facendo qua? Col Galaxy, con Saturn Echo, l'MBP5. Ok, c'era anche Franco California poco fa. Franco, ci sei ancora? Perché non va bene, Roberto? Sì, già ti ascolto. Allora, io ho cambiato microfono, ho fatto delle lavorazioni a orecchio poco fa. Come sta andando con questo? Bene, bene. Ma perché mi hai fatto questa domanda? Non sto uscendo bene? Io ti sento leggermente spostato. Ho guardato anche con l'altro poco fa. Sei leggermente spostato in basso. No, è possibile. Impossibile, adesso non c'è il frequenzimetro, 27.075.00, Roberto, c'è il frequenzimetro, il Galaxy, ti ho detto che tu hai problemi, se stai usando il 440 hai problemi, quella radio è spostata quella radio. Ah, ti ha ascoltato con 7000, non con il coso, c'è il centraggio, quello lì c'è la frequenza centrata, c'è poco, ti ascolto bene, però c'è tipo un pochettino di, come cazzo sai definirlo, un pochettino gracchiante, dice. Se ti metto spostato un pochettino più in basso, al 0,74 ti sento perfetto centrato, al 75 ti sento un pochettino, col baracchino non te ne accorgi perché il baracchino è più largo, perché gli altri li ascolto perfettamente, anche a Tino lo sto ascoltando perfettamente centrato, ho fatto la prova con gli altri pure, non significa niente, stiamo parlando di cose impercettibili. Io ho parlato con 7000 e adesso mi tolgo il dubbio. Sì. Oh, qua. Ma come era? Quella foto che ti ho mandato, è quella lì. Quella è funzionante al 100%, c'è anche la 27. Capito? No, Robert, non mi ha detto niente nessuno, quindi non lo so. Anche Gianfranco, stavo parlando ieri, lo sai che Gianfranco è molto più preciso di te, e mi ha detto che va benissimo. Quindi evidentemente perché siamo troppo vicini, non lo so, ma io sto andando con 7 watt. Tino, come mi ascolti tu? Bene? Sì, te l'avrei detto la stamane. No, ho provato anche io a fare su e giù e per me sei centrato. Beh, c'è il frequenzimetro questo, altrimenti avrebbe lampeggiato. Poi il tunnel, il fine corso è tutto a zero, proprio centrato perfettamente, no, vabbè, un problema, qualche altro problema, non lo so, non è detto, perché ascolti col 7000 cosa c'entra? Non c'entra assolutamente niente. Ne ho avuto io dei radio digitali, è meglio del 7000, eppure qualcheduno, soprattutto in banda laterale, mi diceva che ero leggermente qualche chilo e ti è spostato, non c'entra niente. Non è perché ricevi col 7000, 7000 è il top, no, vabbè. Ho molta più esperienza di te in queste cose, l'ho avuto prima di te il 7000 e anche 7000 lascia quel tempo che trova. Questo è un baracchino ed è perfettamente in isonda, anche perché dove l'ho comprato e so perfettamente chi ce l'aveva, non è che l'ho comprato da internet, l'ho comprato da una persona fidatissima. Vabbè, comunque a prescindere, dai, questa è la modulazione, questa va bene così. Cosa stavo dicendo? Avanti a chi tocca, Antonio, a te tocca, vai. Ehi, ti, quella lì. Quello è un, non mi ricordo come si chiama, aspetta, te lo dico e me l'ho segnato. Quello è un Classman PCR 320, una radio americana del 1974, funzionante al 100%, c'è una bellissima ricezione. Capito? Una radio militare, si può portare anche a tracolla, va a 24 volts, infatti è collegata all'alimentatore 24 volts, c'ha 25 watt sia in AM che in SSB, c'ha CW doppio largo, stretto, AM e SSB. Sì, bella, bella. Vabbè, poi se la colleghi passerà, me la fai sentire. Devo spostarmi dalla radio, dai, che devo fare cosa, volevamo a casa e devo fare cosette qua. Ci sentiamo più tardi niente. Ma sai che tra quarantena la collego, dai, ci sentiamo dopo, riprendi, vabbè che collego il Classman. Adesso secondo me l'ho chiamato al telefono, riprendo subito. Meglio, va bene, cioè, aspetto 2 minuti, ecco. Capo, attacca questo Classman, almeno sentiamo un po'. L'ho già sentito, su quanto vento che c'è pure oggi, sotto. Non lo so, adesso è perfetto, così ti trovi una parata a fianco, ti trovi in 3 secondi, c'è un vento sopra. Stiamo avendo un nuovo riparo, ma male, ci sono i 3 tirati che stanno tenendo, se no se l'ha girata a me l'antenna, sull'antenna della VHF, quella la direttiva, quella 12 elementi, Santa Maria mi ha girato il palo, figurati, ha fatto leva su quell'antenna e mi ha girato il palo proprio lì. Adesso aspetto che cambi questo casino e poi salgo su e sistemo bene la cosa. Chiamo a cosa Daniele e me la faccio saldare. Faccio saldare il palo direttamente nella tappa pipetta, la faccio saldare. Metto quattro. Taglio con la tappa pipetta e quattro tasselli e così me lo ripristino le cose. E me lo sono soli tranquilli per sicurezza. Ah, io Falcone, allora questo è il Classman PCR320 con micro cornetta, attenzione a tutte le unità, temporale in arrivo, cambio. Sono rientrato io. Cazzo, te ti mando un video, guarda, dice, la fine del mondo, due reggiati se l'abbiamo fatto. Però c'è una bella modulazione, microfono, microcornetta, e che devo tenere lontano dall'orecchio, cazzo, se no mi vedi Giorgio, perché la ricezione ce l'ha dal parlascolta della microcornetta. Però guarda che modulazione che ha, buona, Sì, sì, vabbè, è differente dalle solite, giustamente, però è bella, chiara, forte, bella. È un po' cittoconica, cioè, come un telefono, però già va bene. Certo che ci tofono, ci potrete un telefono, ma guarda, è veramente molto molto divertente, è una cosa allucinante. Però c'è una recessione da favola, una recessione, guarda, non sai quanto arrivate bene con anche con ascoltandovi con il parlascolta, perché c'è il parlascolta della microcornetta, c'è lo smitterino piccolino rotondo, sì. Qua è una cosa veramente, se la vedi al vivo ti metti a ridere. Proprio una cosa di 10 militari, poi è stagna, figurati che l'ho verniciata, no? Perché è un po' graffiata, che l'ho staccata dalla tracolla, perché c'è la tracolla, l'antenna sua esterna, c'è la batteria esterna da 24 volte da attaccare alla radio, adesso è alimentata a 24 volte con l'alimentatore, ed era un po' graffiata e l'ho verniciata, e la giubbotta pure asciutta, no? Perché l'ho verniciata con una vernice un po' particolare di quelle verde militare, no? E adesso è già asciugata la giubbotta vola, gli ho detto tante stagne, voi ci facevano le fasi nuda. Allora sì, vabbè, era scontato tanto che ho un pochino cittofonica, è così la radio, però è bella, va bene, si sente bene, ti ripeto, chiara, divertente, va bene. Ragazzi, vi devo mollare, mi devo spostare, dai, mi sono trattenuto per ascoltare a Claudio l'ultimo acquisto. E vabbè, la rilancio a Claudio, aspetta il piano e poi vado via, dai, ciao. Ciao Ti, dai, grazie per aver aspettato, ci sentiamo più tardi. Avanti Antonio, pronto. Gamba, saluto Ricci, ci risentiamo le prossime, gamba. Avanti Pompo. Secondo me Claudio ha fregato la cornetta alla macchina dei carabinieri, alla Giulietta. Pomponio. Antonio, no, è così, questo è originale. No, già. Cornetta militare, è originale, c'è il PTT, sì, come quelle cornette lì, però questa è molto più antica, cioè è la sua, no? È la sua, questa del Classman 320. Ciao Marco, buongiorno a tutte le unità, qua torre di controllo in vedetta, cambio. Sono entrato io. Ehi Robert, stavamo col Classman 320, dai, la radio militare. Non mi dica la modulazione è citofonica, sto usando una microcornetta, cambio. Ma proprio cornetta, quella tipo che si usavano prima nei mezzi della polizia, che ascolti con l'orecchio, c'è la cornetta superiore e poi sotto che fare, così. Esatto, PTT nella cornetta, però vi ascolto molto, molto bene. Benissimo, non bene, cambio. È forte comunque per essere una radio così. Ma c'è anche Gianni entrato. Non è Gianni, avanti Gianni, cambio. No, sono io. Gianfranco, non è Gianni. Ah, scusa, mi sono confuso, avanti Gianfranco. Non è Gianfranco, che è Vittorio Giove. Buongiorno Vittorio. Dove sei? Con chi sei? 6x6, 36. Cazzo, tutti molti sono. Ah, vabbè, comunque funziona, è perfettamente funzionante, al 100%. 100%, ottimo per la truppa, sì, la deve avere una bella capsula sul microfono, perché me l'ha detto anche Gianni Capri. Funziona molto molto bene. A te Robert, fai girare. Sì, è forte come radio, faccio una cosa che devo meditare questa. Sì, questo è l'Eclasman PCR 320, scritto a radio militare, decametrico naturalmente, però c'è anche la 27, microcornetta, alimentato a 24 volts. Ma tu hai VCO, quindi cioè, non hai le memorie, c'è memoria pure? C'è le memorie, non tocco nulla, sicuramente sì, qua da 1 a 8, c'è anche l'accordatore manuale. Capito, c'è anche l'accordatore, me la completa, non ti preoccupare. Sì, 1, 2, 3, 4, 5 memorie c'è, però io non ho memorizzato niente. Come me l'hanno data l'ho lasciata, la faccio, le metto io le frequenze, mi sposto con le frequenze sue, capito? Ok, chi c'era che stava provando che stava facendo male però? Avanti, chi è? Io, c'ho l'antenna. Ciao a tutti, l'antenna, il vento me la... Era già a 45 gradi, adesso l'ha girata sul palo della X7000, quindi ogni tanto tocca la cima della Mantova 1 sul palo di sostegno della X7000 e quindi mi va su di stazionarie, tutto lì, faccio rientri di RF. Ciao Vittorio, ben sentito, Roberto, questa parte è compagnia di Claudio, Antonio e tutti c'era, ancora lo compugno, avanti Antonello. Ciao Vittorio, ben sentito. A me mi ha pagato leggermente il palo, la verità, è un fianco nel muro, ma ha girato l'antenna, ma ha girato in pratica, ma non l'avevo tirato, se non ci fosse stati tirati ce l'avevo trovata giù, ce l'avevo trovata da Andrea, ci sembra la parabola che c'è qui, dando grano non me l'ha fatto. Però l'unica cosa che mi ha trovato giù è l'antenna del coso, della TV, del secondo, quella grande, quella HD, quella appesa, mi ha picchiato un mano, l'ha piegato tutto. Speriamo che questo vento finisca presto, così almeno salgo sopra e rinforzo tutto, se no devo fare per forza i buchi. Comunque il muro, ho detto a sedi di quelli che vende Fusano, perché diciamo prima, faccio vedere un muratore e faccio le cose come si deve, non sto più spaventato una notte io, e vedo che siamo travocato tutto giù. Adesso appena migliora il tempo, chiamo un muratore e faccio fare quel lavoro lì, se no sono fregato. Meno male, forse è passato lì tra Lippunti e San Camillo, lì era proprio il cono della tromba all'aria, ha fatto più danni. Qui era forte lo stesso, ma ci è andata bene, l'hanno volato tetti, tegole e tutto. Lo so, già l'ho visto, già filmato. A Lippunti ha fatto un sacco di danni, poi lì a San Camillo gli ha tracciato tutto, mezzo tetto gli ha tracciato. Guarda, se tocca poco a poco questo volato qui mi porta via tutte le tegole. È rimasto sotto a tegole, tutti i giorni avete trovato le tegole. Quando arrivano così punte di vento che superano 100 orari comincia a portar via un po' di roba, e a volte sono anche 120-130 orari, non sono quei cicloni a 270 km orari americani, però anche qua si stanno intensificando come forza e come frequenza. Prima succedeva ogni morte di pappa, adesso è quasi tutti gli anni. Gappa, dai, riprendo io e niente, sono qua comunque, io sto sempre andando con questo sommergibile qua. Chi è entrato? Già eri tu allora, Vittorio, dove non ti ha fatto l'antenna? No, era inclinata a 45 gradi, adesso è ancora un po' più bassa, ma l'ha girato, ha girato il palo in direzione di dove ho questa Suzanne, nella X7000 insomma, e quindi ogni tanto sbatte la cima della Mantova 1 sul palo di sostegno della cosa, quindi salgono le stazionarie eccetera eccetera. La notte è una festa, sembra suonando il tamburello. Lo so, vabbè, no, io danni non ne ho subito, grazie a Dio, sto bene. Aveva sganciato l'altra volta il dipolo.